Il calcio permette di aprire dei canali di comunicazione incredibili. Qui il regista ha giocato anche una partita di questo tipo. Ci sono persone, vedo Verdi, vedo Paolo Anselmo, insomma ci sono un sacco di persone che in un quotidiano un po' nascosto, fuori dai riflettori, dedicano del tempo ad altre persone. Per riscoprire dei valori, delle situazioni di benessere che ognuno di noi in fondo ricerca nel quotidiano, nella vita di tutti i giorni. A me è capitato appunto di avere a che fare con queste persone e persone che normalmente non si relazionavano con tutta la sovrastruttura sanitaria, se vogliamo, psichiatri, psicologi, psicoterapeuti, che pure hanno un ruolo fondamentale. Grazie al gioco del calcio, grazie al fatto che magari il papà li portava a vedere una partita o sentiva una radiolina, tutto il calcio minuto per minuto, aprivano dei canali di comunicazione persone che improbabilmente stavano tutto il giorno legati, sì, a un termosifone, perché sto parlando di 30 anni fa anch'io, o non sapevano più che cosa fosse il gioco, o il piacere, o il sorriso, ecco, mi chiedevano. Ma com'è che Giorgio Viglino ha scritto che sei un imbecille? No, ha detto anche di peggio, diceva, scriveva. No, diceva perché al 23esimo del secondo tempo non hai ammonito quel giocatore della mia squadra? Perché hai dato quel rigore? Perché la Sampdoria è andata in Serie B per colpa tua? E persone che non avevano ancora detto una parola negli ultimi 15-20 giorni aprivano questo canale di comunicazione grazie al calcio, grazie anche alle sciocchezze che facevo io, no? E a Giorgio Viglino che scriveva sul giornale caratteri cubitali. Quindi voglio dire, si può trovare del benessere, si può trovare qualcosa che unisce in ogni uomo. Ecco, io credo che il pregio maggiore di persone che investono del tempo, della passione, delle idee su temi di questo tipo sia proprio questo, riuscire ad aprire dei canali di comunicazione e a far capire che queste sono prima di tutto delle persone che devono affrontare dei problemi, in modo anche gioioso, in modo anche ironico, in modo riflessivo, esattamente come il nostro quotidiano, insomma. Grazie.